Sono le 8. Manca qualche secondo, via. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Buongiorno, perché vi svegliate adesso? Burro e Fortunelli. Siete di Firenze? La colazione Rock. Dai, prendete il tram che piove oggi. Ogni giorno alla mattina. Rock. Non lo saprete mai che cosa è successo nella prima ora. Anzi, in realtà potreste scoprirlo, ma non ora, dovrete attendere ancora un po'. Al termine della seconda ora di diretta, tutta la 118esima puntata finirà su RadioRockFM.com in streaming, oppure sempre via internet in download in podcast. E da ieri c'è uno scarnissimo mio spazio al quale stiamo lavorando, myspace.com/paneburrofm, dove quotidianamente aggiorneremo 4 interventi differenti andati in onda. Restate con noi perché vi svegliamo al meglio. C'è anche il film che ci tiene compagnia fino a oggi, perché è iniziato lunedì, oggi è venerdì, quindi congediamo, amici miei. Restate con noi. Insomma, se invece che in un dramma fossimo in una commedia sofisticata, a questo punto il protagonista direbbe all'antagonista: professore, sono venuto a chiederle la mano di sua moglie. Ha finito? Sì, anzi no. Aggiungo che, guardi, lei di fronte a sé ha un uomo disposto a tutto, eh? Anche a prendersi la bestia? Prego. Quell'affare lì è il cane di Donatella. Gli è molto affezionata. Si chiama Birillo. Ma certo che vi prendo Birillo. Guardi che mangia 1 chilo di macinato al giorno, 1,5 di riso, e tutte le mattine bisogna portarla a urinare alle 5, se non in onda la casa. Ma cosa vuole che me ne importi di questi dettagli? Parliamo di cose serie, invece. Parliamo delle bambine. Parliamone. Visto che lei si dimostra così comprensivo, io faccio appello alla sua umanità perché consenta a Donatella di continuare a vedere le sue creature. Almeno una volta ogni 15 giorni. No, eh? Ecco il ricatto, eh? Ti pareva? No, guardi che c'è un equivoco. Io dicevo no, perché sono io che verrò a visitare le creature a casa sua. Forse ogni 15 giorni, non so se potrò, ma insomma ci metteremo d'accordo. Ma allora lei? Vede, architetto, è tutta una catena di affetti che né io né lei possiamo spezzare. Lei ama mia moglie. Mia moglie è affezionatissima a Birillo. Birillo adora le bambine. Le bambine sono attaccatissime alla governante. La governante? Tedesca, 2 anni di contratto, severissima, in uniforme. Insomma, chi si prende Donatella deve per forza prendersi tutto il blocco. Mike che cosa? Prende il sopravvento, no, esca e da prende questo, esca la da questo corpo. Mike Fricantoni. Sì. I compleanni del giorno, non me li rovini così con Mike Buongiorno. Assolutamente, vabbè, non okay. Mi parli di rovinare. Salutiamo. Perché io valorizzo. Allora valorizzi questo 26 ottobre quando nel 1912 nacque Donald Siegel. Siegel, bravissimo. Alleluia. Cosa regista, ha fatto? Ce lo dica. Attore, montatore statunitense. Sì. Non le dirò la famosa battuta di Fricantoni? Quale? Secondo la quale si chiede se nei film porno sì. Il montatore e l'attore sono la stessa persona. No, questo non era allora, film porno, film di Donald Siegel, grazie. L'invasione degli ultracorpi. Perfetto. The Invasion of the Body Snatchers. Ma pure in lingua originale. Il contratto per uccidere. Sì. Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. Dirty Harry, che è la traduzione del titolo, complimenti a chi la tradusse. E infine sì. Abbiamo Fuga da Alcatraz. Fuga da Alcatraz, sì, l'hai venuto Alcatraz. Bene. Alcatraz. Sì, un carcere. Abbiamo Fuga sì, da Alcatraz. Si sblocchi e passiamo a un altro compleanno. Fuga da sì, Alcatraz. No. Era il 1960 quando nasceva Carlo Lucarelli, scrittore, conduttore televisivo, sceneggiatore italiano, celebre per i suoi noir. Molto giovane. Perché? Molto giovane, ma già molto... Sì, molto giovane, ma già molto bravo. Chiudiamo con un collega musicista, un bassista, nasceva nel 69, Saturnino Celani, bassista italiano. Sì, grande bassista di Jovanotti, ma anche grande turnista. Ma mi lasci dire in coda sì. Che nel 1978, il sì. 26 ottobre, è nato sì. Un certo CM Punk. E chi è, un musicista? No, è un wrestler professionista americano. Molto rock, il wrestler vende sempre bene. Si sa che nel mio camion, oltre alle foto pornografiche, sì, se sì. Si può dire, io metto anche qualche wrestler. Ah, sì. Così fa, per fa la sua figura, si fa molto macho, molto, molto truck driver. Viva il camion di Freak. Viva il rock. We'll be right back. giorno dopo giorno il dizionario rock di pane, burro e rock and roll continua a inserire idiomi all'interno di se stesso. Un idioma dopo l'altro, certo. Lei ci ha scoperti, DJ Ariele, noi vogliamo costruire il vocabolario del rock italiano. Si chiama Le parole ribelli, il maestro Roberto Fricantoni ne sceglie ormai una al giorno, non vedo veramente l'ora di scoprire il termine. Si sente che sono un po' spaventato, non sto recitando. Vagamente, un filo sì, un il filo termine sì, si nota. Di oggi! Infatti, al servizio della cultura di pane, sì, burro e rock and roll, la parola ribelle di oggi è flatulenza. Eccala, grazie, grazie, grazie. Andiamo. Volgarmente scorreggia. Non c'era bisogno, c'era... E allora... Prego, vada. E allora, per smentire questo suo rincrescimento, queste sue riserve, io partirò con una citazione aulica, ah, tratta, guardi, anche solo per fare invidia, sì, per fare invidia a Roberto Benigni, sì, partirò dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, oh, Inferno 21, versetto 138, ed egli avea del cul fatto trombetta. Ottimo inizio. Quindi, esatto, quindi in qualche modo abbiamo una copertura letteraria. La flatulenza è una miscela di gas, che è prodotta da batteri simbiotici e da lieviti che vivono nel tratto gastrointestinale dei mammiferi, sì, quindi anche nel nostro, certo, non nascondiamolo, e di particelle aerosolizzate di feci, rilasciata sotto pressione attraverso l'ano, con un caratteristico suono ed un odore solitamente sgradevole. Eh sì, ricordo. A proposito del suono, vi proporrò ora un paio di esempi fingendo, cioè imitando il suono della suddetta flatulenza con la bocca. È obbligatorio? Ma è per dare un'idea più esatta, è un esperimento scientifico. Sì. Ecco, flatulenza morbida, detta anche scorreggia Filippo. Ottimo, passiamo a un'altra. Scorreggia secca. Approfondiremo più avanti altri concetti legati alla flatulenza. Avrei tanto voluto saperlo, ora lo so. Merci. Dica la verità, lei quest'oggi non avrebbe voluto saperlo. Io tutti i giorni non avrei voluto saperlo, ma vabbè. Ma sia ribelle, stia con noi, stia con le parole ribelli. Che c'è? Played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. About his fans and should we clutch him for your hands? Oh. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was towards the night with God-given eyes. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Associandomi dalle rubriche curate, ideate da Roberto Fricantoni, proseguo con la trasmissione. Ormai ci siamo esposti seriamente, abbiamo detto, promesso che l'obiettivo era vincere la gara degli ascolti radiofonici anche contro i grandi, anche contro le grandi radio, perché siamo convinti che la nicchia potrà vincere. Giochiamo sporco in questa lotta agli ascolti. Perché giochiamo sporco? Perché la buttiamo sul cacciareccio e soprattutto sul soft porno. In questo preciso campo c'è un'amica che ci aiuta ad arrapare le radioascoltatrici. Non avrei mai voluto farlo, ma lo faccio solo per gli ascolti. Do il benvenuto a Rosy da Milano. Ciao. Rosy, dormito male stanotte? Oggi sì. Fortuna che almeno tu non guidi tram. No, il tram no. Sì, esatto, quindi i milanesi possono stare tranquilli. Reparto softcore, chiediamo ai bambini, nel caso fossero ancora all'ascolto, di girare stazione radiofonica, perché qui si va sul pesante. Siamo la prima radio, ricordiamolo Rosy, a farvi vedere le foto softcore in diretta radiofonica. Infatti. E questo è il nostro merito, Rosy, pigliamocelo. Cioè, siamo arrivati per primi, è giusto che sia così. Allora, il calendario di oggi, sì, parto subito. Vai. È il calendario dei maestri di sci austriaci. Ah, quindi omoni messi bene. Sì, non benissimo, secondo me. In che se? Beh, maestro di sci. Erano meglio i giocatori di rugby, comunque. Ah, beh, perché è uno sport un po' più intenso, sì. Beh, sì. Il titolo del calendario è Ice on Fire. Ed è la seconda edizione. Quindi ghiaccio sul fuoco. Bellissimo. Ah, fantastica. Mediamente il calendario ha delle ambientazioni, diciamo, esterne, sulle piste da sci, con questi figuranti con la loro bella tutina aperta a pelo a vista, insomma. Ah, quindi non sono nudi? No, soltanto 3 mesi hanno un nudo integrale. Ti sento un filo delusa, Rosy. Pensavo di più, insomma. Quello dell'anno scorso era più carino, l'avevo anche visto in Alto Adige. Ma il maestro di sci è villoso? No, neanche. Sono tutti perfettamente toilettati. Aia, contro toilettatura, no rock. Sei d'accordo? Sì, non mi piace l'uomo senza pelo. Bene. E quindi poca roba, cioè sciano con la tutina aperta. Sciano con la tutina aperta, ce n'è uno con il parapendio e la tutina aperta. Perché uno dovrebbe andare sul ghiacciaio a far parapendio, lo sa soltanto lui. Sì, ma anche perché dovrebbe sciare con la tutina aperta? Questa è un'altra provocazione che ti lancio. Dipende da quanto hanno bevuto prima. Questo hai ragione, touché. E anche dipende dal fatto che stanno facendo un calendario nudi, quindi. Altrimenti non potrebbero. Senti Rosy, però, per alzare l'ascolto ed arrapare le radioascoltatrici, andiamo su qualche mese. Partirei da gennaio. Oh. Abbiamo una simpatica ambientazione interno grotta di ghiaccio, sì, con dei tavolini fatti in ghiaccio scolpito. Molto bello. Con delle bottiglie di champagne. Il maestro di sci. Beh, scusami, champagne però non fa sci. Non fa neanche austriaco. Comunque. E non fa neanche austriaco, brava. Però è gennaio, uno dice stappi, botto, okay, capodanno, quelle storie lì. Brava, giusto. Il maestro di sci è raffigurato a figura intera. Ottimo. Con gli scarponi da sci, nudo, in una posizione tipo di scobolo, quindi con una gamba davanti che copre le nudità, sì, un bicchiere, anzi un calice. No, cosa copre le nudità? Me lo son perso. E la gamba è posto in torsione, accavallato, diciamo. E anziché avere il disco come il discobolo, sì, ha un calice di champagne che lo sta per reiettare contro la grotta, sì. E non so perché gli occhiali da sole. Allora, mi viene un dubbio e so che tu puoi dissipare questo mio dubbio. Questo, visto che mi dici che gli altri sono un po' vestiti e lui no, non è che questi hanno preso un attore per fare gennaio ignudo e non è un maestro di sci? So no. Che tu potrai riconoscerlo, lo sguardo, la faccia di un maestro di sci si vede. Sì, potrebbe essere maestro di sci. Okay. So che tra i 12 mesi c'è un ex campione di sci, medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Albertville. E lui è nudo vestito? Lui è nudo vestito, visto da dietro, però a mezzo busto, perché comunque è un uomo di più di 40 anni. Senti, quindi. So che la chiappa regala sempre ascolti, vogliamo dare un'occhiata veloce al campione olimpionico così? C'è uno di chiappa. Bellissima. Mi ricordo, ricordo che nell'ultimo calendario dei rugbisti paragonasti le chiappe al pallone da rugby. Sì, questi sono del. No. A cosa ti sentiresti di paragonarle invece il campione olimpionico? Una zucca di Halloween un po' cascante. Rosy, sei stata fondamentale come sempre. A presto. Ciao, ciao. cacciate al volo carta e penna, perché siamo alla Sancta Sanctorum di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Sì, l'angolo più caldo, il momento rovente della trasmissione. Il test attitudinale. Quello che vi regala due bei punticini per la vostra agognata tessera patente di autentico rocker. Torniamo molto volentieri a parlare di Frank Zappa e nello specifico di una sua ospitata ad un programma televisivo degli anni 60 condotto da un intrattenitore di nome Joe Pyne. Questo programma si distingueva, e soprattutto questo conduttore, per l'atteggiamento caustico e aggressivo. Posso tradurre in italiano Joe Pyne? La prego. Giovannino Pino. Può essere. I modi bruschi del conduttore miravano a provocare gli ospiti, spingendoli ad una discussione vivace o a fare ammissioni imbarazzanti. In quell'occasione Frank Zappa rispose per le rime al provocatorio Joe Pyne. Sapete come? Ipotesi A. All'affermazione "caspita, che capelli lunghi che ha Frank", Zappa rispose: "Beh, a proposito di lunghezza, dovrebbe dare un'occhiata all'interno delle mie mutande". Rispose forse così, oppure ipotesi B. Ironizzando sul fatto che il conduttore avesse una gamba di legno, era un portatore di handicap, all'affermazione "dai capelli lunghi si direbbe che lei è una ragazza", Frank Zappa rispose: "e dalla gamba di legno si direbbe che lei è un tavolino". Rispose forse così, oppure ipotesi C. All'affermazione del conduttore "che brutta cera che oggi, si è per caso drogato tutta la notte", Frank Zappa rispose: "chieda a sua moglie cosa ho fatto stanotte, caro Joe". Qual è la soluzione esatta, la A, la B o la C? Come al solito, la risposta giusta ve la diamo fra poco, e cioè la soluzione a dopo.